mana, di na mana, di na mana, oh susa, so di so do, di na mana, di na mana, loni kasi, ikasi lefa. Hallelujah. Yay! Well, I trust.